America 24 di Mario Platero. Benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. You know, one approach is to try to do it completely through austerity, to have the countries just cut and cut and see if they can make it. Meno male che c'è Bernanke, il governatore della Banca Centrale Americana, ha dato ieri un quadro equilibrato e rassicurante, devo dire, della posizione economica del nostro paese rispetto, rispetto a certe interpretazioni un po' isteriche dei mercati. Per esempio, il governatore ha detto, nelle brevi frasi che vi ho fatto ascoltare poco fa, l'Italia ha difficoltà come tutti, ma ha dei punti di forza, ad esempio un surplus primario. Poi subito dopo, le banche sono in condizioni decenti, hanno sottoscritto aumenti di capitale, ci sono, aggiunge, molti punti di forza anche nel settore manifatturiero. Infine, poi c'è questa indicazione chiave alla domanda provocatoria, naturalmente, del senatore dell'Illinois Mark Kirk, il junior senator, che durante l'audizione di ieri del presidente della Federal Reserve davanti alla commissione bancaria al Senato chiedeva fino a che punto ci si dovrebbe preoccupare in America delle turbulenze europee, e formula questa domanda: dovremmo forse avere anche per l'Italia e la Spagna un salvataggio simile a quello greco? E la risposta di Bernanke è stata chiara: no, perché, e qui cito di nuovo un suo virgolettato, perché la prima linea di difesa italiana è nell'Italia stessa, che prenderà i provvedimenti necessari. Un riferimento questo al voto di oggi sulla manovra di austerità, che dovrebbe sgombrare definitivamente il campo dalle incertezze e dagli attacchi ora dai mercati, ora, diciamolo, da alcuni grilli parlanti come Ken Rogoff, professore di economia a Harvard, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale. Me lo sono trovato davanti in un contraddittorio televisivo qua a New York. Mario Calvo Platero is US editor of Il Sole 24 Ore, a national political and financial daily newspaper in Italy. And Ken Rogoff is economics professor at Harvard University and co-author of This Time is Different. Ebbene sì, ho dovuto così intervenire in questa trasmissione televisiva pensando che sarebbe stata una trasmissione così interessante e costruttiva, perché è il NewsHour, forse il più prestigioso telegiornale approfondimento in America, uno dei più ascoltati, uno dei più credibili della PBS, la rete pubblica americana, la Public Broadcasting System, è un giornale, diciamo, di approfondimento in cui ci sono sempre dei dibattiti molto garbati. Mi sarei aspettato di fare una conversazione piuttosto costruttiva, e invece mi sono accorto che Rogoff è partito all'attacco. People are starting to say now, wait a second, if Greece is going to default, which in last weeks has seemed inevitable, where is it going to stop? Why should I keep my money in a bank in Italy at 1% when I can have it in Germany at 0.5%? And that's really what's putting the pressure on. Qui Rogoff fa un collegamento fra la Grecia e l'Italia e dice, insomma, con quel che succede in Grecia la gente comincia a chiedersi, ma io perché mai dovrei tenere i miei soldi in una banca italiana quando per un piccolo premio posso tenerli in una banca tedesca? Non solo. There's a bank run danger here that if you lose confidence, if people lose confidence in the Italian banks, what are they going to do? Ecco, qui Rogoff fa una fonda addirittura preoccupante per uno che è stato un ex funzionario del Fondo Monetario Internazionale, e cioè dice, in una situazione così difficile, nel momento in cui c'è un rischio di perdita di credibilità, il pericolo è quello di una corsa agli sportelli delle banche italiane. Ecco, io francamente credo che una cosa di questo genere non si debba neanche dire. Le banche italiane, per fortuna, sono solide e non hanno questo problema. E difatti, sentite, gliel'ho detto. I do not believe for a second that there will be a run on the Italian banks. They are relatively solid. The saving rate in Italy is very high at the private level. The debt is very high, 120% of GDP, but there is a plan to reduce it. Ecco, io rispondo immediatamente appunto a Rogoff dicendogli che non credo neanche per un secondo che ci sarà una corsa agli sportelli delle banche italiane. Spiego un po' le nostre situazioni di fondo, il fatto che il programma di austerità varato dal governo prevede un bilancio in pareggio al 2014, e che abbiamo un forte tasso di risparmio, che le aziende tutto sommato sono competitive e così via, così via. E devo dire che gli Stati Uniti certamente sono ben lontani da questo, e difatti a un certo punto, quando Rogoff continuava a insistere sul fatto che l'Europa è allo sbando, l'euro allo sbando, eccetera, eccetera, beh, insomma, il rischio contagio alla fine, secondo me e secondo altri, può anche arrivare agli Stati Uniti. Sentite. The US is certainly not in a very good position these days, and the market will attack it if we're not going to find soon here a budget agreement to cut the deficit. How about that, Professor? What's the downside for the United States in continued European fiscal unrest? I think there's no comparison yet between Europe and the United States, and I agree with Mario that eventually, if we don't do something about our budget deficits and our rising debt, it will come to us. A quel punto sono io che provoco Ken Rogoff, perché gli dico: ma insomma, qui non è solo questione di Europa, perché gli americani non stanno meglio, e se il contagio va avanti nel modo in cui lo descrivi tu, a un certo punto arriva anche gli Stati Uniti. Il nostro conduttore, divertito dalla mia provocazione, dice: what about that, professor? Cosa ne pensa, professore? E lui prende le distanze da questa posizione, dice: no, non, assolutamente no, la nostra situazione è molto diversa. Ecco, e qui dobbiamo aprire una parentesi. Perché? Perché mentre parlavamo, Moody's annunciava il rischio di un possibile downgrading degli Stati Uniti d'America. Mentre parlavamo, il presidente degli Stati Uniti Obama lasciava il tavolo del negoziato battendo i pugni sul tavolo, e quindi rompendo in qualche modo il processo armonico che era andato avanti da qualche tempo con i repubblicani. Dunque una situazione di rottura, di crisi. Non solo, ma tornando al nostro Bernanke, devo dire, ha dato torto a Rogoff su tutti i punti che vi ho citato, e a un certo punto persino ha detto che i problemi che ci sono in Europa, beh, tutto sommato sono gli stessi che possono avere gli Stati Uniti d'America. Nel momento in cui c'è scarsa credibilità su misure di bilancio, i mercati reagiscono e finiranno per alzare i tassi anche da noi se non si farà qualcosa. Bene, da noi in Italia qualcosa si è fatto, l'America resta in alto mare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Cher ha registrato una cover di The Greatest Thing di Lady Gaga, che includerà nel suo prossimo album. L'ha comunicato la cantante stessa in un tweet su Twitter, spiegando che la canzone è stata donata proprio da Lady Gaga. Cher, the music's no good without you. We'll be right back. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!